Ciao a tutti, buongiorno. Questa volta voglio parlare del mio contenuti, del modo in cui sto diventando, sviluppando i miei contenuti e anche voglio parlare del plan che abbiamo in questo anno. Aspettiamo una chiamata dell'autorità elettorale del mio paese per ottobre o settembre. Le persone che hanno scannato la mia conta in Twitter, sapete del plan che abbiamo per questo anno, al finale di anno e per il prossimo anno. E per questo sto cercando sponsorizzazione di aziende, società multinazionali, società private, e offro mettere insieme la sua marca e nei miei contenuti. Nell'audio forse un slogan all'inizio dell'audio e nel video e in la animazione una tenda tra riprese del video e questo è lo che offro a cambio della sponsorizzazione. E la sponsorizzazione è per la situazione che abbiamo al finale di anno, per il plan che abbiamo a finale di anno. È una situazione complicata. Dobbiamo complire un certe situazioni certe caratteristiche per diventare candidato, ma dobbiamo aspettare a questo tempo, al finale di anno, per cumplire con queste caratteristiche e dopo questo per questo sta destinato un bilancio di parte del governo, del Stato. Per le candidati che cumplen con le caratteristiche. Ma prima di questo, forse dobbiamo investire soldi in diverse situazioni. Tutto questo con il scopo di questo plan a finale di anno. E per questo stiamo cercando la sponsorizzazione. Questo è diverso del mio website. È diverso del mio del dello mio del miei contenuti, è cosa diversa. Il mio contenuti bisognerà di tempo. Abbiamo una migliaia di audi e abbiamo diversi video, diverse animazioni, ma dobbiamo generare quantità di contenuti. La migliaia di audio forse lo possiamo mettere insieme al website e domandare un pago per ascoltare le audio, ma non lo so se funzionerebbe. Per parlare la verità, forse, le persone che voglio ascoltare vogliete pagare un euro, ma stiamo planeando domandare un euro per quattro contenuti, ma non so, un euro per quattro audio, non lo so se le persone vogliono pagare l'euro o il dollaro, ma forse se abbiamo anche le video, le animazioni, forse le persone sarebbe motivata per pagare l'euro e il dollaro per quattro contenuti, ma questo è diverso del plan che abbiamo per settembre o ottobre. È diverso. È evidente che con il tempo avremo le contenuti nel website, audio, video, animazione, applicazione, documentari, una varietà importante di contenuti e una quantità importante di contenuti, non soltanto l'audio, non soltanto il video, non soltanto la visualizzazione, non soltanto l'applicazione, non soltanto qualunque contenuti, sino tutti insieme. E in questo momento sono sicuro che le persone pagherebbe un euro, un dollaro per quattro contenuti. E dipende anche del contenuti per definire il costo del contenuti. Dipende dai contenuti, però in generale è questo. La sponsorizzazione che stiamo cercando, che è una sponsorizzazione che deve essere pronta, e per il plan a un anno, a settembre, ottobre, è per questo che stiamo cercando la sponsorizzazione di aziende. Va bene, è tutto. Buongiorno a tutti, buona serata, non lo so, dipende dove siamo. E grazie a tutti.